dai la tua interpretazione. Anonimi compagni, amici che restate, le verità sociali da forti propagate, è questa la vendetta che noi vi domandiamo, è questa la vendetta che noi vi domandiamo. E tu che ci discacci con una vil menzogna, Repubblica borghese, un dì ne avrai vergogna, ed oggi ti accusiamo in faccia all'avvenir, ed oggi ti accusiamo in faccia all'avvenir. Elvezia è il tuo governo, schiavo d'altrui si rende, di un popolo gagliardo le tradizioni offende, e insulta la leggenda del tuo Guglielmo Tell, e insulta la leggenda del tuo Guglielmo Tell. Banditi senza tregua, andrem di terra in terra a predicar la pace ed a bandir la guerra, la pace dagli oppressi, la guerra agli oppressor, la pace tra gli oppressi, la guerra agli oppressor. Addio cari compagni, amici luganesi, addio bianche di nevi, montagne ticinesi, i cavalieri erranti son trascinati al nord, i cavalieri erranti son trascinati al nord. Ed ecco un'aggiunta che non è di Gori, degli anarchici livornesi. Vittorio Emanuele, figlio di un assassino, e viva Gaetano Bresci che uccise Umberto I. E questa è la vendetta che gli anarchici san far, e questa è la vendetta che gli anarchici san far. Benissimo. Senti, continuiamo. Senti, Failla, l'anno scorso noi abbiamo inciso i canti della Resistenza italiana e abbiamo seguito lo stesso sistema, cioè andare nei luoghi dove sono nati, dove sono sorti, e farli cantare dalle stesse persone che nelle formazioni le cantavano. In più poi abbiamo inciso, non in coro, alcuni canti cantati da Mario De Michiri. Mario De Michiri è un critico d'arte, no? Si occupa di molte cose, ma non è un cantante. A un certo momento abbiamo trovato che la sua voce, che non era una voce coltivata, che non era una voce di cantante, andava benissimo. Ora io trovo che Addio Lugana Bella, come tu l'hai cantato, va benissimo. Ti chiedo un enorme favore, ce la vuoi reincidere dal principio alla fine? D'accordo. Ma risentiamola, vediamo, perché lui ha dato una buona impostazione. Ecco, allora risentiamo.